colore per accendersi deve avere un po' di nero mischiato insieme. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Cerchio magico. Certi problemi non sono un dramma, perché la vita che li programma se no si scioglie questo groviglio. C'è canzone senza uno sbaglio. Misteriosi. Reale, luce che si riproduce grazie a quel buio che la comune. al buio che sono nato e grazie a lui ho camminato. Luce che si riproduce grazie a quel buio che la conduce, nasce dal buio e ci conduce, sembra banale ma è reale. Luce che si riproduce grazie a quel buio che la conduce, nasce dal buio e ci conduce, sembra banale ma è reale. Yeah. momenti. We'll be right back. momenti incoerenti. Ogni colore per accendersi deve avere un po' di nero mischiato insieme. Fatto. il moto di un'onda. far back, dress on and fire the devil flag and devil fly. Comportamentale del suono. Mi sembra buono. Prende vita, accendo la radio su M2O. ascoltare Gigi D'Agostino. Accento la radio su F2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Viento che sta trasportando. Siento tu voz che mi sta trasportando. Di dover disfare ciò che ho appena fatto. Oh,